c'è in fondo alla linea, perché la linea era perfettamente una linea retta, Monte Amiata, Bugarache, Pirenei, Bermuda e Indaie, e alla fine c'era Santiago de Compostela. Per cui, e per me è stata una piacevole sorpresa, perché non avevo idea che ci fosse questo collegamento. Erano anni che studiavo i collegamenti tra le città Inca, non pensavo che ci fosse un collegamento di città a livello orizzontale così lungo il 42esimo parallelo, anche qua in Europa. E così sono partita con mio marito, abbiamo fatto in macchina tutto il cammino atlantico, attraversando tutto il nord della Spagna, la Catalogna, i Paesi Baschi, la Cantabria, le Asturie, fino ad arrivare in Galizia, fermandoci nei luoghi che ci attraversano, le montagne, dove c'erano le fonti sacre, eccetera eccetera, e nel frattempo avevo iniziato a documentarmi su Santiago de Compostela e quindi avevo moltissime aspettative. Quando siamo entrati in Santiago de Compostela alla fine del nostro viaggio avevo tantissime aspettative, perché nel frattempo sapendo che cosa c'era dietro tutto questo cammino, chiaramente le mie antenne erano molto dritte. E quello che è successo è che quando poi alla fine del nostro viaggio in macchina finalmente sono entrata nella cattedrale di Santiago de Compostela, non ho percepito nulla, nulla di nulla, elettroencefalogramma piatto proprio. E la cosa mi aveva abbastanza stupito, perché entrare in un luogo così carico di storia, di tradizione, dove migliaia di pellegrini ogni anno arrivano dopo essersi sparati 800 km a piedi partendo da San Jean Pied de Port sul Pirenei o da Roncisvalle, no? Io che sono abbastanza abituata a sentire le energie dei luoghi, entrare in questa cattedrale e non sentire nulla mi ha lasciata esterrefatta. E quindi ho capito che ci doveva essere qualcosa sotto da indagare, e quindi sono uscita dalla chiesa, dalla cattedrale, e nella piazza, una delle piazze dietro la cattedrale, che si chiama Plaza de Cervantes, che era una piazza dove anticamente si enunciavano le streghe, che poi è diventata la prima tappa del cammino pagano che abbiamo riaperto, sono entrata in una libreria e ho chiesto al libraio, a brutto muso, dico: ma non avete qualche cosa sul cammino che non sia cattolico? Gli ho fatto uno così con le mani, perché ci doveva essere qualcosa oltre la cattedrale di Santiago, non poteva essere lì la fine di tutto questo popò di cammino, di preghiere, di parabara. Non era possibile che si risolvesse in nessuna percezione, quindi tanto marketing, tanto business, ma poca sostanza per i ricercatori dello studio. E questo signore, questo libraio, mi guarda un attimo di sghimbescio e mi mette in mano un libro, mi dice: provi con questo. Mi mette in mano un libro che si chiama La ruta pagana dello Sumetto, il cammino segreto di Santiago, la ruta pagana dello Sumetto, di un certo Raffaele Lema. Io leggo il libro, e mi si apre un mondo, perché era tutta la narrazione delle vere origini del cammino, non di Santiago, ma il cammino di Compostela, cioè Campus Stelle, il campo delle stelle, che parte dal Mar Nero, da 10.000 anni, e che da 10.000 anni i pellegrini percorrono attraversando tutta l'Europa lungo questa line, che è il 42esimo parallelo, per arrivare all'estremo ovest, al Finisterre di Galizia, che è il punto più occidentale dell'Europa, dove è l'ultimo punto dell'Europa dove si vede il sole tramontare. Quindi partivano praticamente dall'Armenia, che è il Mar Nero e il Mar Caspio, è per questo che stiamo facendo il cammino ritroso. Dall'Armenia si facevano tutta questa strada a piedi per arrivare fino al Finisterre, per poter incontrare la puesta del sole, come la chiamano loro, cioè il tramonto, l'occaso, e per poter in realtà fare questa meditazione attiva sulla morte, perché il cammino di Compostela alla fine, se ti risuona questo, me lo puoi confermare, è una lunghissima meditazione attiva sulla morte. Cioè su quello che è la morte in realtà, non come momento finale, ma come momento di passaggio al di là dello specchio per quanto riguarda. Il cammino pagano, questa via pagana, è un cammino femminile, perché è un cammino che segue una linea tellurica, cominciando in un tempo in cui nell'antica Europa esisteva una società che è stata definita matriarcale, cioè era una società, una comunità dove si adorava la dea e dove le comunità erano guidate dalle donne anziane. Quindi tutti questi culti erano riferiti ai riti femminili. e tutto il cammino era costellato ed era caratterizzato da culti femminili dedicati alla Dea. Quando si entra nella cattedrale di Santiago, nella porta da dove entravano i pellegrini fino a poco tempo fa, c'è una stella nel pavimento che dice: per questa porta ti consegno alla mano destra, o sei consegnato alla mano destra. Il che significa, e qui è l'indico, da quel momento tu sei tolto alla mano sinistra, che è il cammino pagano della Dea, cioè la parte sinistra, no? Collegata al femminile, e vieni immesso invece nella via destra, che è quella cattolica, è quella maschile, tutto quello che invece demonizza la parte pagana, la parte della Dea. Quindi in realtà il simbolo della strega in Galizia, oltre a tutto quello che dice lui, secondo me è anche fortemente il richiamo a questa antica, antichissima tradizione femminile, che tra l'altro noi abbiamo sperimentato, noi Cerchio Planetario delle Donne, che qui proprio in prima fila abbiamo due meravigliose sorelle, proprio all'equinozio d'autunno del 2013, 60 donne radunatesi lì a Moschia da tutta Europa, dove abbiamo fatto un rito per risvegliare l'energia di queste pietre, di questi monoliti che anticamente venivano usati per i riti dedicati alla Dea e che poi sono stati colonizzati dalla Chiesa Cattolica col santuario della Vecchia Navarra. E uno di questi monoliti ha proprio la forma del bacino di una donna, quindi passando sotto a questo sasso, figurati, siamo passati in 60 donne, sotto a questo enorme monolito, passando sotto si aveva la sensazione della nascita, un rito, esatto, un rito di rinascita. Ciao Bevana, eccomi qua di nuovo sul cammino, sul tuo cammino, quello che hai aperto nel 2012, mi pare, un cammino che ormai ho percorso forse 5 volte, ma questa volta con una nuova consapevolezza. E devo dire che tutti i cammini che tu hai aperto sono veramente qualcosa di straordinario. Qui, oltretutto, in questo luogo, Ponte Masseira, dove ci sono queste acque che scorrono continuamente, c'è un'energia particolarissima. Ne ho percorsi tanti altri, ma devo dire che qui c'è qualcosa di magico, qualcosa di diverso. Giovanna, ciao a tutti.